Platone, La Repubblica, libro secondo. Per conto mio credevo che, dette queste ragioni, la discussione sarebbe stata finita, e invece, come fu poi evidente, eravamo giunti appena al preludio. Glaucone, infatti, è natura assai pugnace e generosa in tutto, e tale si dimostrò pure in questa occasione, non volle accettare il compromesso di Trasimaco. Cominciò dunque così: «Socrate, vuoi soltanto far mostra d'avere infuso in noi una qualche persuasione, oppur davvero convincerci che in ogni modo è meglio essere giusti piuttosto che ingiusti? Oh, veramente convincervi, risposi, questo almeno è il mio desiderio, se fosse in me la scelta. E allora, ciò che fai, continuava, non risponde certo al tuo desiderio. Dimmi un po', non credi che vi sia un tipo di bene che s'accetterebbe di possedere non per desiderio di un risultato che ne può derivare, ma per amore di lui in se stesso, quel bene? Esempio, i divertimenti e i piaceri che non recano conseguenze. Per opera di questi beni, chi ne fa esperienza, prova in un successivo momento soltanto un senso di gioia. Sì, dissi, mi par proprio che vi sia questo tipo di bene. E senti, allora, e ciò che amiamo, sia in se stesso per sé, sia anche per ciò che ne deriva, esempio, il pensare, il vedere, l'esser sani, tali beni, è evidente, noi li amiamo per due motivi. Sì, risposi, e vedi che vi è pure un terzo tipo di bene. A questo novero appartengono gli esercizi ginnici, il curarsi quando si è malandati in salute, l'esercizio della medicina e così ogni altro mezzo di guadagno. Tutte queste occupazioni le diremo certo faticose, che procurano vantaggio tuttavia, e queste occupazioni non vorremmo certo averle per se stesse, bensì pensando al guadagno e a tutti i vantaggi che ne derivano. Certo è così, rispondevo, e veramente vi è questa terza categoria, ma perché poi? Perché vorrei sapere in quale di queste categorie tu metta la giustizia. Credo, dissi, nella categoria più alta, quella degna d'amore per se stessa e per le conseguenze che derivano a chi dovrà essere felice. Ma così non sembra davvero alla gente, continuava. Si crede che giustizia appartenga alla categoria dei beni in sé faticosi e che viceversa debbano essere ricercati per i vantaggi e i premi, per la buona rinomanza e per la gloria. Ma in sé, com'è pesante la giustizia? Conviene quindi evitarla e sfuggirla. Lo so benissimo, risposi. È questa l'opinione generale, e siccome Trasimaco considera in tal modo la giustizia, esprime la sua disapprovazione, e ogni lode invece rivolge all'ingiustizia. Ma purtroppo la mia mente è tarda a ricevere queste notizie. E Glaucone, allora ascolta anche me, se ancora sei disposto ad ascoltare. Penserei, vedi, che Trasimaco sia stato da te incantato come un serpente prima di quanto si dovesse, e che la dimostrazione dall'una parte e dall'altra non sia stata svolta come si dovrebbe. Così almeno mi pare. È mio desiderio udire che cosa sia giustizia e che cosa ingiustizia. Quale l'azione dell'una e dell'altra quando ciascuna venga a trovarsi da sola nell'anima senza rapporto col suo contrario? D'altra parte, lasciare andare i vantaggi e le conseguenze. E intendo far così, qualora io abbia il tuo consenso. Riprenderò e rinnoverò l'argomento di Trasimaco e, in primo luogo, dirò quale sia, secondo il comune giudizio, la giustizia e d'onde proviene. In secondo luogo, farò vedere che quanti praticano giustizia la praticano malvolentieri come una necessità, non come un bene. In terzo luogo, farò vedere quanto sia naturale questo modo d'agire, in quanto la vita dell'uomo ingiusto è molto migliore, così si ripete comunemente, in confronto a quella del giusto. Io, a dir la verità, o Socrate, non sono di questa opinione, incerto tuttavia, perché i ragionamenti di Trasimaco e d'altri senza numero assordano le mie orecchie. Al contrario, non ho potuto udire come vorrei il discorso adatto a difendere la giustizia, in quanto migliore dell'ingiustizia. Vorrei sentire, insomma, uno sviluppo particolare sull'argomento, e sono sicuro che soltanto da te potrò aver soddisfazione. Per tale motivo, diffondendomi a lungo, esalterò la vita ingiusta e col mio dire potrò indicarti quale debba essere anche il tuo discorso di risposta a vituperio dell'ingiustizia e ad esaltazione della giustizia. Osserva se approvi quanto propongo. Oh, benissimo, esclamai. Su quale argomento mai, più che su questo, parlando e ascoltando, si potrebbe trovar diletto maggiore? Chi sa valutar le cose, naturalmente. Hai perfetta ragione, rispondeva. Ecco dunque, ascolta. Tratterò, conforme alla promessa, il primo argomento, che cosa è la giustizia e donde tragga origine. È opinione comune che, secondo natura, sia cosa buona commettere ingiustizia, il subire invece ingiustizia cosa cattiva. Inoltre, il subire ingiustizia, si afferma, produce un male più grande di quel bene che l'ingiustizia commessa può fruttare all'ingiusto. Quindi, nell'alterna reciproca serie di ingiustizie subite e commesse, e nell'esperienza dell'una e dell'altra condizione, non potendo gli uomini completamente evitare la prima e scegliere invece la seconda, convengono che sia utile un reciproco accordo, non commettere ingiustizia e non subirla. Le leggi, anzi, ebbero principio da questo punto, così pure le reciproche convenzioni, e si dette per tal modo nome di legale e di giusto a ciò che la legge ordinava. Questa la genesi prima e l'essenza di giustizia, intermedia tra una condizione ottima di chi, commettendo ingiustizia, non pagasse il fio, e la condizione peggiore di chi subisce l'ingiustizia ed è incapace di vendetta. La giustizia, insomma, intermedia tra questi due estremi, è venerata non come un bene, bensì onorata per l'impotenza di chi commette l'ingiustizia. In realtà, chi può commettere l'ingiustizia, chi è uomo veramente, non discenderà mai ad accordi per non commettere lui stesso e per non subire da altri ingiustizia. Un bel pazzo sarebbe. Ecco, ti ho, Socrate, ben chiara la natura di giustizia e la sua origine pure. Così è la comune voce. Del resto, si vede benissimo come i cultori di giustizia coltivino contro il loro volere questa giustizia, per impotenza di seguire l'opposta via. Si può immaginare il seguente caso. Diamo possibilità all'uno e all'altro, al giusto e all'ingiusto, di far ciò che più gli piace. E stiamo bene attenti dove la passione finirà per condurre l'uno e l'altro. Oh, allora vedremo perfettamente che il giusto approda, spinto da eguale avidità, alla medesima ripa dell'ingiusto, perché ogni natura ha in sé innato come cosa buona lo sforzo di saziare questa avidità, e tale natura viene distorta poi per violenza a venerare l'eguaglianza. La possibilità a cui accenno soprattutto si presenterebbe in un'occasione simile a quella che un giorno si presentò, e fama, all'antenato del re della Lidia. Egli era infatti un pastore e serviva presso il Signore in quel tempo della Lidia. Avvenne allora grande bufera e commovimento tellurico, e in una certa parte la terra si spezzò. Si formò così una voragine sul luogo ove egli menava al pascolo le greggi. Se ne accorse, pieno di meraviglia discese giù, e vide stupende cose, fra queste un cavallo di bronzo, cavo, e aveva alcune porticine. Il pastore sporse il capo dentro e guardò. C'era un corpo morto e appariva più grande di un uomo comune. Questo corpo morto nulla in sé recava, solo intorno alla mano un anello d'oro. Glielo tolse e venne su. Si fece poi l'abituale adunata dei pastori, perché dovevano riferire mensilmente al re novità circa le greggi. Ci venne anche lui e aveva il suo anello. Prese dunque posto insieme agli altri. Senza badare, aveva girato la gemma dell'anello verso se stesso, verso l'interno della mano. Quando ciò avvenne, il pastore diventò invisibile ai compagni che gli stavano accanto seduti, ed essi parlarono di lui come se fosse andato via. Grande la meraviglia del pastore, che con un leggero tocco gira in fuori la gemma, aggira e diventa visibile. Egli pose attenzione a questo prodigio e fece più volte prova se veramente l'anello avesse questo potere. Insomma, così sempre gli avveniva. Quando volgeva l'anello verso l'interno diventava invisibile, quando verso l'esterno visibile. Appena se ne accorse, fece in modo d'essere uno dei messi alla corte del re. Venne alla corte, strinse relazione adultera con la sposa di lui e con l'aiuto della donna trasse in insidia il re, lo uccise, così ne occupò il regno. Supponi ora ci sono due anelli di tal genere e uno se lo mette il giusto, l'altro anello invece l'ingiusto. Certo non vi sarà nessuno, pare evidente, di così ferrea natura da restar saldo nella sua giustizia. Nessuno avrà un cuore fermo che s'astiene dagli altrui averi, che non pone la mano su quelli quando, senza pericolo alcuno, gli si conceda di prendere ciò che più gli piace, nel mercato, in una casa, dovunque potrà entrare e incontrare chiunque vuole, per uccidere e liberar dalle catene chiunque vuole e perpetrare in mezzo agli uomini, pari a un dio, ogni sorta di delitti. E in questa condizione il giusto e l'ingiusto non si comporteranno diversamente, destinati a pervenire l'uno e l'altro alla stessa meta. E questa, certo si dirà, è la prova decisiva che nessuno è giusto di suo spontaneo volere, bensì perché vi è costretto. Oh, la giustizia non è affatto considerata un bene per l'individuo, e ognuno, quando può credere di riuscir bene nell'ingiustizia, ingiustizia commette. Ognuno, è un fatto, è pienamente convinto che l'ingiustizia, in privata sede, giovi assai più del contrario, e ha pienamente ragione, così almeno dice chi difende questa tesi, perché, supponi, si presenta un'occasione come quella del pastore, e c'è chi non vuole assolutamente commettere opera ingiusta, e non ammette di toccare gli altrui averi. Ebbene, costui sembrerebbe certo l'uomo più disgraziato, non solo, anche l'uomo più sciocco a chi potesse tenergli dietro con l'osservazione. E quante lodi a lui tributerebbero gli altri uomini nelle loro conversazioni, pronti, si capisce, a truffarsi a vicenda, per terrore di venir sorpresi da ingiustizia. E di questo basti, e ora contrapponiamo, in aperto contrasto, il tipo più giusto di vita al tipo più ingiusto. Pronunceremo allora esatto giudizio. E come apparirà evidente il contrasto? Nel seguente modo. Non dobbiamo togliere nulla dall'ingiustizia dell'uomo ingiusto e nulla dalla giustizia del giusto, bensì tratteggeremo l'uno e l'altro nello svolgimento stesso della vita. Prima dunque l'ingiusto, sappia agire a guisa di esperto artefice, sarà come un perfetto nocchiero, come un medico che sa percepire ciò che si concede alla propria arte e ciò che non si concede. E a certe cose questi artefici perfetti pongono mano, ad altre invece no. Ancora, se in qualche particolare commettono errore, saranno capaci di immediato rimedio, così il nostro ingiusto. Trattando e manipolando con tanta abilità le sue ingiuste combinazioni, seppur deve essere un formidabile ingiusto, avrà anche bravura di non farsi scoprire. Chi si fa cogliere sul fatto deve essere ritenuto persona assai da poco, consumazione di ingiustizia, sembrare d'essere giusto e non esserlo. In conseguenza, bisogna concedere al perfetto ingiusto un'ingiustizia perfettissima. Nulla gli devi togliere, bensì concedigli pure che, commettendo ogni sorta di misfatti, si sia procacciato diffusa fama d'uomo giusto. Se poi metterà il piede in fallo, deve essere capace di tirarsi su, anzi, capace di giustificarsi con la parola, trovando ancora fiducia nel caso che qualche misfatto venisse alla luce, capace anche di ottenere con la violenza, quando c'è bisogno di violenza, capace per valore, per vigore, per facoltà proprie e d'amici. Ecco, abbiamo tratteggiato il nostro uomo, mettiamo ora accanto a lui, con le nostre parole, il giusto. Uomo semplice e generoso che, dice Eschilo, vuole non apparire ma essere onesto, e l'apparire bisogna appunto eliminare. Se infatti vorrà apparire, potranno derivarne onori e vantaggi, appunto perché appare giusto, e non si potrà allora scorgere se è giusto per causa di giustizia o per causa di vantaggi ed onori. Ecco, di tutto facciamolo ignudo, sola, in lui, giustizia. Effigiamolo dunque opposto al precedente, e pur non commettendo nessuna ingiusta azione, abbia sicura fama di ingiustizia. Così sarà fatta prova del suo amore per la giustizia, se davvero non si lascia flettere da cattiva fama e da conseguenze che da quella derivano. Incrollabile andrà sino alla morte, per tutta l'esistenza sembrando ingiusto mentre è un giusto. Per tal modo, l'uno e l'altro saranno pervenuti all'estremo grado, l'uno della giustizia, l'altro dell'ingiustizia. E adesso facciamo la prova e vediamo quale dei due è più fortunato. «Guarda, guarda!» esclamai, «il nostro Glaucone, con quanto vigore viene effigiando l'uno e l'altro dei due uomini, sono statue perfette ormai che tu mi prepari per il prossimo giudizio». «Come mi riesce meglio!» rispondeva. «Del resto, se tali essi sono, non mi par difficile delineare con parola il tipo di esistenza che attende ciascuno dei due. Cominciamo dunque, e se saranno argomenti un po' crudi, devi pensare che non sono io o Socrate che li dico, bensì quelli che antepongono l'ingiustizia alla giustizia, e diranno nel modo seguente: se ciò si ammette, il giusto sarà flagellato, sarà torturato, posto in ceppi sarà, gli si bruceranno gli occhi, da ultimo, sottoposto ad ignominia estrema, sarà impalato, e conoscerà che non bisogna volere essere giusti, ma sembrare d'esserlo. Invece il detto di Eschilo sarebbe meglio usato in relazione all'ingiusto. Si dirà che, siccome esercita un'attività aderente al vero, e siccome non vive d'apparenze, l'ingiusto sceglie non di sembrare, ma di essere veramente ingiusto. Frutto cogliendo di profondo solco, con vigore di mente onde germogliano consigli grandi e decisioni nobili. E, per cominciare, a lui che sembra uomo giusto, è concesso reggere il governo della sua patria. Può prendere una sposa da qualsiasi famiglia, le figlie può darle quali spose a chi più gli piace, può stringere rapporti d'affari e d'amicizia con tutti, ma ancora di più, può esperire gli immensi vantaggi del guadagno, in quanto, se si tratta di ingiustizia, non ha scrupolo alcuno. Eccolo, discende nel lagone di vita pubblica e privata, vince i nemici con violenza e inganno, soperchiando, ecco, è ricco, ecco, è in grado di far benefici ai suoi amici, di far danno ai nemici, e sacrifici e votivi doni, con signorile abbondanza e magnificenza. E gli dèi e gli uomini, come più gli talenta, molto meglio che il giusto può coltivare. Così, assai più del giusto, per ragione evidente, accetto agli dèi e amico. In questo modo, Socrate, si va ripetendo che da parte degli dèi e da parte degli uomini è preparata all'ingiusto una vita migliore. Quando Glaucone ebbe dette queste parole, io avevo intenzione di dargli una risposta. Invece il fratello suo, Adeimanto, continuò subito: «Ma ti par davvero, Socrate, che su quest'argomento si sia detto a sufficienza?» «Sì, e perché?» domandai. «La cosa più importante non è stata detta, ed era questa che avremmo dovuto soprattutto ricordare». «E allora», replicai, «secondo il proverbio, al fratello il fratello soccorra. Insomma, se il primo ha trascurato qualche cosa, anche tu puoi venire in aiuto. Comunque, gli argomenti detti sono già sufficienti per buttarmi a terra e per mettermi nella impossibilità di portare aiuto alla giustizia». «Su questo non ti credo», rispondeva lui. «Del resto, sta attento a quanto segue. È necessario, vedi, osservare attentamente anche gli argomenti contrari a quelli da lui esposti. Gli argomenti, cioè, di quanti lodano la giustizia e biasimano l'ingiustizia. Così il pensiero di Glaucone si farà più chiaro. I padri e quanti si prendono cura di qualcuno dicono ai figli e fanno viva esortazione, continuando a ripetere che conviene essere giusti. ma con ciò non intendono celebrare la giustizia in sé, bensì il buon nome che deriva da quella. Per questa via, infatti, a chi fa mostra di essere giusto, provengono appunto dal fatto che egli si pone in mostra, eminenti uffici politici e nozze e tutte le belle cose da Glaucone poco fa annoverate, quando mostrava che derivano all'uomo ingiusto dal fatto che egli possa godere di fama inconcussa. Anzi, costoro non mancano di mostrare con maggiore evidenza gli effetti di una buona reputazione. Cominciano intanto a metter nel conto la buona fama di cui si gode di fronte agli dèi, e hanno così modo di elencare l'immensa abbondanza di beni che gli dèi concedono agli uomini. Esiodo, l'ottimo poeta, e Omero, per esempio, chiaramente parlano a questo proposito. Per i giusti, dice Esiodo, gli dèi fanno sì che le querce in vetta portino ghiande, a mezzo api, e le pecorelle lanute hanno greve il vello, proprio per loro, e così via altri infiniti beni. Né diversamente l'altro poeta, egli parla di qualche sovrano glorioso che venera il cielo e gli dèi, che retta giustizia sostiene, la terra nera gli porta messe dell'orzo e frumento, gli alberi gravi di frutti, figlian continue le pecore ed il mare i pesci produce. Museo e il figlio suo assegnano ai buoni, da parte degli dèi, beni più fulgidi di questi. Affermano che giungeranno all'invisibile e li rappresentano assisi a un banchetto disposto appunto per i giusti, e fanno che incoronati trapassino nell'ebbrezza un perenne ciclo di tempi, ritenendo la più bella mercede di virtù una sempiterna ebbrezza. Vi è chi riporta a più lungo termine ancora le mercedi degli dèi. Affermano che figli dei figli e discendenze nel futuro si perpetuano da parte dell'uomo pio e di colui che è fedele al giuramento. Questi e altri del genere, gli elogi che intessono la giustizia. Ma gli empi e gli ingiusti li seppelliscono in una fangosa regione nella casa dell'invisibile e li costringono a trasportare acqua con un vaso forato, e mentre ancora durano la vita li rappresentano vittime di orribile fama. Insomma, tutte quelle punizioni che Glaucone ebbe modo di esporre circa i giusti ritenuti ingiusti, queste stesse le dicono a proposito degli ingiusti, senza aver modo di escogitarne altre nuove. Eccoti dunque lode e biasimo delle due parti. Ma oltre a questo, devi badare, Socrate, vi è un altro tipo d'argomenti, ripetuto nelle private conversazioni e nelle opere dei poeti, a proposito di giustizia e di ingiustizia. Tutti in coro celebrano bellezza di temperanza e di giustizia, ma dicono che sono difficili e faticose. Al contrario, sfrenatezza e ingiustizia, dolci possessi e facili all'acquisto. Soltanto l'opinione e la legge le ritiene brutte. Del resto, più vantaggiosa di giustizia, l'ingiustizia, così ripetono universalmente. Dicono appunto che i ricchi disonesti e in genere le persone potenti sono particolarmente fortunate e si protestano pronti, in pubblico e in privato, a tributare onore e rispetto, invece a disprezzare e a non tenere in nessun conto gli altri, quanti siano deboli e poveri, ammettendo con tale atteggiamento che quei primi siano migliori. Ma, in modo particolare, desta il nostro stupore ciò che si viene ripetendo sugli dèi e sulla virtù. Dicono che gli dèi assegnano a molti buoni sventure e vita infelice, ai malvagi invece un contrario destino. Ciarlatani e indovini si recano ai palazzi dei ricchi e arrivano a persuaderli di una propria potenza segreta ottenuta dagli dèi con sacrifici e con incantesimi. Così, se qualcuno lui stesso o i suoi antenati ha commesso ingiusta azione, se ne possono sanare le conseguenze per mezzo di divertimenti e di feste. Qualora invece si voglia far male a un nemico, e costui può essere una persona onesta come anche un malvagio, si può farlo con piccola spesa, per mezzo di segrete formule di incantamento, persuadendo così, essi dicono, gli dèi a prestare ogni servigio. E in tutti questi argomenti adducono quali testimoni i poeti, i quali concedono vie aperte alla malvagità. Dicono infatti che Malvagità, pur anche la folla persegue facilmente, piana la strada, e quella è da presso, alla virtù sudore, posero avanti gli dèi. E un certo cammino, lungo, aspro, in salita. Altri invece citano Omero, quale testimonio della possibilità che gli dèi si lascino piegare dagli uomini. Disse infatti questo poeta che puoi, dèi, compreci, piegare, sacrifici copiosi ed offerte benigne portando, placano con libagioni e fumo sempre i mortali, supplicando se qualche peccato o delitto si compie. E t'allegano in numero enorme libri di Museo e d'Orfeo, figli delle muse di Selene, così vanno ripetendo, sotto la cui autorità si vanno facendo i sacrifici. E questi libri possono persuadere non solo uomini singoli, ma intere nazioni, che vi sono modi di rimetter le colpe, che ci sono purificazioni a mezzo di sacrifici e di gioconde feste, sia per viventi, sia anche per defunti. E tutto ciò chiamano cerimonie di misteri e di iniziazione. Esse arrivano a farci liberi dei mali di laggiù, terribili per chi non le compie. Tutte queste cose, Socrate, si continuano a ripetere in tal modo e con grande frequenza sulla virtù e sulla malvagità, e si vuol dimostrare che uomini e dei non trascurano né l'una né l'altra. Ma quale sarà di fronte a ciò la reazione delle anime giovanili, quei giovani particolarmente che, di ingegno vivace, sono pronti, librati quasi in un volo, a desumere le conseguenze lontane di ciò che si dice? Come dovrò veramente essere? Per qual via rivolgermi sì da percorrere nel miglior modo possibile il cammino della vita? Con ogni probabilità quel giovane ripeterà a se stesso il detto di Pindaro: seguendo giustizia oppur con obliqui inganni, l'alto muro debbo io salire, e tra questi inganni, di inganni cinto e difeso, debbo passar la vita? Stando ai precetti che mi si vengono ripetendo, se sarò giusto e se di questa virtù non farò dimostrazione, nessun vantaggio ci sarà. Manifesti invece gli affanni e i dolori. Si afferma invece che vita magnifica attende l'ingiusto, se sia procurato fama di giustizia. In conclusione, non mi insegnano forse i sapienti che l'apparenza anche a verità fa violenza, non è arbitra e domina di felicità, e allora volgiamo del tutto verso quella. Vestibolo quasi e facciata, tutto intorno a me stesso disegnerò uno scenario e un'inane prospettiva di virtù, ma dentro trascinerò la volpe astuta e variopinta del sapientissimo Archiloco. Mi si potrà obiettare, è un fatto. Se sei un malvagio, in qual modo ti riuscirà di non farti scorgere? E io dirò allora che nessuna impresa un po' grande si presenta facile. Pure, siccome è in gioco la felicità della vita, non c'è che questa via, e verso quella si deve procedere, quella per cui, se ne seguiamo le orme, ragione conduce. Del resto, per cercar di non farsi scorgere, ebbene, raccoglieremo amici fidati e consorterie opportune. Esistono maestri di persuasione, i quali ci possono dare una sapienza atta alle assemblee e ai tribunali. Così faremo in modo, un po' con la persuasione, un po' con la forza, di non pagar la pena della nostra avidità e delle nostre soperchierie. Sì, diranno, ma agli dèi non si sfugge. Con loro non è possibile violenza alcuna. Risponderà il nostro giovane, ci sono teorie che negano l'esistenza degli dèi, teorie che in ogni caso affermano la loro completa indifferenza per ogni trambusto umano. E allora, perché preoccuparsi tanto di non farsi scorgere? E se anche ci sono, se si prendono qualche cura di noi, veniamo a conoscenza di questo solo dalla tradizione o dalle genealogie dei poeti. E proprio qui si dice che gli dèi, con offerte e con miti preghiere e con doni votivi, possono essere persuasi e se ne può deviar la decisione. Ammessa la quale dottrina, ci sono due risoluzioni, o ci credi o non ci credi, e se si tratta di credere, commettiamo pure ingiuste azioni, ma poi per mezzo degli ingiusti proventi faremo offerte. È un fatto, con la giustizia saremo soltanto in buona pace con gli dèi, ma rifiuteremo gli opimi guadagni dell'ingiustizia. Se saremo ingiusti, avremo gli opimi guadagni, e pur oltrepassando i giusti limiti, pur gravemente peccando, innalzeremo preghiere, persuaderemo gli dèi e arriveremo ad uscirne fuori senza danno. Sì, ma nella dimora di invisibile pagheremo il fio di tutte le ingiustizie che avremo commesso, noi oppure i figli dei nostri figli. Concedo, ma, amico mio caro, ci risponderà il nostro giovane accorto nel fare i suoi calcoli, le sacre iniziazioni hanno grande potere, così pure gli dèi liberatori ed espiatori. Questo affermano le città più potenti, questo i poeti, figli di dèi, e i profeti, nati dagli dèi. Tutti ci svelano che appunto così stanno le cose. In conclusione, per quale motivo dovremmo scegliere la giustizia e non la più completa ingiustizia? Se questa seguiremo, se le daremo, compagno, un esteriore e falso contegno di buon costume, in vita e in morte, sia di fronte agli uomini, sia di fronte agli dèi, godremo d'opportuno favore, come appunto è la voce più comune e anche più autorevole. Da quanto si disse, insomma, per qual ragione mai, o Socrate, si dovrà prestare onore a giustizia quando si possiede potenza d'ingegno, dovizia di sostanze, vigoria fisica, chiara rinomanza di nascita? Oh, conviene mettersi a ridere quando se ne sentono gli elogi. Del resto, seppur si riesce a dimostrare l'errore di queste nostre affermazioni e seppure si arriva a riconoscere l'alto valore di giustizia, si nutre pur sempre grande indulgenza con chi è ingiusto e non ci si adira con lui. Si sa benissimo, l'uomo giunge a ripudiare l'ingiustizia solo per divine e particolari doti di natura, solo se ne astiene quando si pervenga ad alte regioni di scienza. Nessuno degli altri è invece volontariamente giusto, e il biasimo che si rivolge all'ingiustizia unicamente proviene o da viltà o da vecchiezza o da qualche altra infermità che pone in condizione di non poter agire ingiustamente. Non è difficile vedere che tale è la realtà. Tra questi moralisti, il primo che arriva ad aver forze sufficienti è proprio il primo che fa ingiustizia per quello che le sue possibilità gli consentono. E di questa condizione la causa prima è ciò che dette origine al discorso di mio fratello e a quello mio, rivolto a te, o Socrate. Perché, vedi, illustre amico mio, cominciando dai più remoti eroi, le cui meditazioni ci sono state conservate, e giungendo fino agli uomini dei nostri giorni, tutti affermate d'esaltare la giustizia, ma nessuno ha pronunciato mai parola di biasimo all'ingiustizia, come d'altra parte nessuno è stato capace di tributare lode alla giustizia, se non riferendosi alla fama, agli onori, ai vantaggi che ne derivano. Invece mai nessuno, né in versi né in prosa, ha perseguito con sufficiente indagine ciascuna per suo conto. Nessuno ne ha posto in luce l'efficacia, l'azione sull'anima di colui che in sé le alberga. E ciò, a prescindere da qualsiasi rapporto con dei e con uomini. Nessuno, insomma, ha dimostrato che l'una è il supremo dei mali, quanti in sé l'anima può nutrire, l'altra invece, giustizia, il bene supremo. Se infatti in questi termini tutti voi vi esprimeste fin dal principio, e se dai nostri primi anni così ci si facesse persuasi, allora non tanto si starebbe in guardia per non ricevere reciprocamente offesa e ingiustizia, ma ciascuno per suo conto starebbe attento prima di procedere per quella via, nel timore che, commettendo lui per suo conto ingiustizia, non venisse così a dimorare col supremo dei mali. Sono questi, o Socrate, gli argomenti, e forse ce ne sarebbero ancor di più, che Trasimaco e qualsiasi altro potrebbero porre innanzi quando si tratta di giustizia e di ingiustizia, e ne confondono certo un po' grossolanamente i reciproci valori, ne sono pienamente convinto, ma non voglio, vedi, tenerti celato nulla, e dato il vivo desider mio d'udire da te la contraria ragione, per quanto mi riesce, espongo lunghe e circostanziate le ragioni mie. In conseguenza, tu non devi soltanto dimostrare con la tua parola che giustizia è superiore ad ingiustizia, ma anche di mostrare l'azione che ciascuna per suo conto produce in colui che detiene ingiustizia o giustizia, e di mostrare che l'una è un male, l'altra invece un bene. Le conseguenze della buona o cattiva reputazione togli le via del tutto, come appunto ti invitava a fare Glaucone, perché se non farai astrazione nell'un senso e nell'altro dalle aggiunte, siano esse false, siano vere, non potremo dire che tu esalti la condizione dell'uomo giusto, né, d'altra parte, che severamente persegui la condizione dell'ingiusto, bensì la sua apparenza. Si dirà che tu ci dai esortazione ad essere ingiusti e a cercare di farla franca, e che sei d'accordo con Trasimaco nel dire che la giustizia è un bene di cui gli altri godono, vero e proprio vantaggio del più forte, invece l'ingiustizia il suo tornaconto vero e proprio, ciò che gli serve, la giustizia, danno del più debole. Hai ammesso che la giustizia appartiene al novero dei beni più grandi, tutti quei beni che vale la pena di possedere, sia per le conseguenze che ne derivano, sia, ma molto di più, perché in se stessi sono beni. Di tal genere il vedere, l'udire, il pensare, l'essere in buona salute e altri beni, quanti sono tali per eccellenza di loro alta natura e non per valutazione opinativa. Tu devi insomma celebrare tale aspetto appunto di giustizia, il vantaggio che per se stessa in chi la possiede giustizia apporta, alla stessa guisa con cui l'ingiustizia gli reca danno, e lascia che gli altri ne esaltino i vantaggi e la gloria. Io, vedi, potrei anche sopportare qualche altro che per tal modo esaltasse giustizia e vituperasse ingiustizia, qualche altro che ne celebrasse o ne biasimasse la conseguente gloria e la mercede. Ma se si tratta di te, non vorrei fare esperienza di ciò, a meno che tu non avessi contraria opinione. Tu hai trascorso tutta la vita nello studio di questo problema. E concludo. Non mi devi soltanto dimostrare con le tue parole che la giustizia è superiore all'ingiustizia, bensì le conseguenze dell'una e dell'altra per se stesse in chi le possiede, mi devi mostrare. E ciò, sia nel caso che l'uomo arrivi, sia che non arrivi a nascondersi allo sguardo della vendetta divina e umana, dimostrare insomma che l'una è un bene e che l'altra è un male. Io ascoltai attento. Sempre avevo avuto una speciale ammirazione per le naturali doti di Glaucone e di Adeimanto, ma allora poi, in modo particolare, non potei nascondere il mio compiacimento. Poi continuai. L'amico di Glaucone non ha certo cominciato male la sua elegia, scritta in vostro onore, o figli di egregio padre, quel giorno in cui vi siete coperti di gloria alla battaglia di Megara, stirpe d'Aristone, l'uomo glorioso, divina. Questa lode, o amici, mi par che vada bene. Oh, certo qualche divino influsso è in voi, se non riuscite a persuadervi che l'ingiustizia sia migliore della giustizia, pur capaci come siete stati di agitare in tal modo il problema. E direi veramente che non siate persuasi. Lo desumo da tutta la vostra condotta, perché ad ascoltare le vostre parole non piccolo dubbio sarebbe il mio. Anzi, vedete, quanto meno dubito di voi, di tanto più mi trovo incerto su quanto debbo fare. In realtà non ho modo di prestare vigorosa difesa, le mie forze sono impari a questo compito. Credevo che le conclusioni da me ricavate con Trasimaco dimostrassero senz'altro quanto è superiore giustizia ad ingiustizia, ma voi non le riteneste probative. Ecco una prova della mia incapacità. D'altra parte, non mi piace nemmeno desistere dalla difesa. Empiazione sarebbe. Non sono state formulate in mia presenza ingiuriose conclusioni contro la giustizia. Oh, finché un alito di vita mi sostenga e finché la parola esca dalle mie labbra, non dovrò rifiutarmi di portare una difesa alla giustizia. Il miglior consiglio, dunque, è far quel poco che le mie forze consentono. Glaucone, allora, e gli altri mi pregavano insistentemente di portarlo questo aiuto, di non ritirarmi dalla discussione, bensì spiegare nel modo migliore che cosa fosse tanto l'una che l'altra, così pure mettere in luce la verità sui vantaggi che l'una e l'altra possono apportare. Esposi dunque la mia opinione con queste parole. L'indagine alla quale diamo inizio è assai difficile. Oh, pupille penetranti conviene avere, così mi pare evidente, e perciò, siccome, penso io, non siamo in grado di compiere un'indagine così difficile, è un'impresa non dissimile da quella con cui ci si comandasse di leggere da lontano alcune lettere assai minute senza avere una buona vista. In tal caso si potrebbe escogitare un rimedio, nel senso che è possibile leggere le medesime lettere anche in altra parte, più grandi e più spaziate. E sarebbe non piccolo vantaggio, penso io, leggere prima queste e poi considerare le lettere più piccole, che pur sono le stesse. Perfettamente, rispondeva Adeimanto, ma qual è questo fatto analogo che tu, Socrate, scorgi circa il problema del giusto? Te lo dirò, rispondevo. Giustizia è d'un solo uomo, ma anche di una intera città. Certo, disse lui, e uno Stato non è forse più grande di un singolo individuo? Più grande, rispondeva, e allora potrà esserci più giustizia nel più grande, e meno difficile sarà perseguirne le caratteristiche. Se quindi volete, facciamo indagine sulle città e vediamo che cosa sia la giustizia nello Stato. In un secondo momento ci volgeremo a considerarla in ciascun individuo e cercheremo di cogliere i caratteri simili che rispetto al più grande il più piccolo presenta. Oh, mi pare che vada molto bene. E non credi, dissi, che ci convenga contemplare con la nostra parola la città in quella che sta sorgendo e vederne giustizia e ingiustizia mentre vengono via via affermandosi? Forse anche, disse lui, e se ciò avviene, possiamo sperare di vedere con maggiore facilità quanto si ricerca. Certo. E vi par proprio di iniziare la ricerca? E vedete, opera lunga codesta. Pensateci bene. Bell'e pensato, concludeva Adeimanto. Via, accontentaci. E cominciai allora. Una città sorge dunque perché ciascuno di noi, penso io, non è sufficiente a se stesso, ma ha bisogno di molte cose. Ti par diverso il primo impulso a formare una comunità? Nessun altro, rispose. Così dunque ci si unisce in società per aiuto reciproco, e l'uno per un bisogno, un altro per un altro. Di quante cose non abbiamo bisogno? Avviene che, in unica dimora congregandosi molti compagni per aiuto, a questa convivente dimora si dà il nome di città o di stato. Non è vero? Senza dubbio. Va bene. E quando si procede a reciproco scambio, quando si dà qualche cosa e qualche cosa si prende, non si crede che ciò costituisca un personale interesse? Certo. Su via, dunque, dissi. Parola ci fornirà il mezzo di fondare dalle sue prime origini una città. Il bisogno sarà causa prima di questa fondazione. Come no? Ma primo e grandissimo bisogno è la produzione dell'alimento per poter vivere e mantenere la vita. Indubbiamente. Secondo bisogno imprescindibile è quello di un'abitazione. Terzo, di vesti e di simili cose. Così è. Su via, dunque, continuai, come potrà una città esser pari a sì importante produzione? Non vi sarà forse uno che fa il contadino, un altro l'architetto, un altro infine il tessitore, o non vi dovremo aggiungere il calzolaio o qualche altro produttore d'oggetti a uso del corpo? Sì, certo. Ne consegue che la città, nella sua più necessaria espressione, è formata di tre o di quattro individui. Evidente. Ma senti allora, ciascuno di costoro deve forse offrire la propria opera a tutti in comune? Per esempio, l'agricoltore, unica persona, deve procurare il cibo per quattro e spendere quadruplice tempo e quadruplice fatica per la produzione degli alimenti e farne parte agli altri? Oppure, ipotesi contraria, non preoccuparsi di ciò e produrre soltanto per sé la quarta parte di queste vettovaglie in una quarta parte di tempo? nelle altre tre parti occuparsi per costruire una casa, farsi un vestito, prepararsi le scarpe. In tal modo, senza aver la noia di mettere nulla in comune con gli altri, attenderà per conto suo alle cose proprie. E Adeimanto rispondeva: ma forse, Socrate, il primo sistema è più facile che non il secondo. Non è certo una cosa strana, replicai. Ora che hai espresso la tua opinione, vengo riconoscendo io pure che ciascuno di noi ha una natura sua, non certo uguale alle altre, e ciascuno, secondo le caratteristiche della propria natura, attende a un'opera diversa dagli altri. Non ti pare? Sì. E senti dunque, credi che si riesca meglio quando una sola persona attende a molte arti oppure a una sola? A una sola. Inoltre, una cosa ancora è chiara: se si lascia passare il tempo opportuno di qualche operazione, tutto va a male. Sì, chiaro. Già, il lavoro non vuole certo aspettare i comodi del lavoratore. È una necessità che quanti fanno qualche cosa debbano attendere solleciti al loro lavoro, e non certo come se si trattasse di un di più, necessariamente. Da tutto ciò deriva che i singoli prodotti provengano in copia più abbondante e perfetta e con maggiore facilità quando i singoli lavoratori, secondo l'inclinazione al momento opportuno, attendano al lavoro, liberi da altre occupazioni. Non c'è dubbio. Allora, o Adeimanto, c'è bisogno di più che quattro cittadini per produrre quanto si diceva. In realtà, l'agricoltore non sarà lui che si fa l'aratro, se questo deve essere ben fatto, così pure la vanga e tutti gli attrezzi che servono all'agricoltura. Allo stesso modo, nemmeno l'architetto. Eppure, molti sono gli utensili di cui ha bisogno, e così il tessitore e il calzolaio. O no? Vero. Muratori e fabbri e gli altri molti artigiani dovranno partecipare alla nostra piccola città in numero ragguardevole e la renderanno frequente di popolo. Concedo. Tuttavia, il nostro Stato non si potrà ancora dire troppo grande, anche se aggiungeremo bovari, pecorai e altri pastori. Naturalmente, perché gli agricoltori abbiano bovi per arare, gli architetti abbiano bestie da soma da adoperare per i trasporti insieme agli agricoltori, e così tessitori e calzolai abbiano pelli e lane per il lavoro. Ma allora non sarà più una piccola città, disse lui, se ha tutta questa roba. E d'altra parte non è nemmeno facile, aggiunsi, fondare la nostra in un luogo che la esenti da ogni bisogno di importazioni. Sì, impossibile. E allora avrà necessità dell'opera di altri ancora, i quali da un'altra città recheranno qui i prodotti di cui la nostra ha bisogno. Sì. Del resto, supponi, un nostro cittadino si reca in un paese straniero a mani vuote e non porta nulla di ciò che quelli ricercano. D'altra parte, i nostri vorrebbero ottenere dai mercati stranieri i prodotti che alla loro volta ci sono necessari. Ebbene, questo cittadino ritorna indietro, pure a mani vuote, non credi? Ne sono convinto. Ne consegue che non soltanto debbono produrre in casa quanto basta a se stessi, bensì anche per gli altri, e ciò nella giusta misura. Di altri popoli nostri hanno infatti bisogno. Debbono, sì. Allora alla nostra città occorreranno in abbondanza agricoltori e così pure altri artefici. In una certa abbondanza, sì. Ma inoltre anche quegli incaricati che potranno importare ed esportare i singoli prodotti. E costoro sono i mercanti, ti pare? Sì, allora avremo anche bisogno di mercanti. Si capisce. Ma nel caso in cui le relazioni commerciali si svolgano attraverso il mare, ci sarà bisogno di molti altri esperti per cose navali. Molti, certo. Ma senti allora, in qual modo potranno scambiarsi per entro la città stessa ciò che ciascuno produce? Del resto, per questo motivo appunto abbiamo fatto una comunità e abbiamo fondato la città. Oh, è chiaro, disse lui, provvederanno a questa bisogna vendendo e comperando. Allora avremo a questo scopo un mercato, e per lo scambio, quale tessera? La moneta. Si capisce. Supponi ora che un agricoltore o anche un artefice porti sul mercato qualcuno dei suoi prodotti. Può accadere che non giunga nello stesso momento di quanti pur debbono comperare da lui. Credi che per provvedere dovrà interrompere il lavoro e starsene immobile ad aspettare nella piazza del mercato? Eh no, disse lui, vi è chi soccorre all'inconveniente e si offre per questo servizio. Anzi, nelle città bene amministrate si tratta quasi sempre di uomini fisicamente poco vigorosi e inadatti ad altri lavori. Stanno pronti intorno al mercato e comperano da chi si trova in necessità di vendere. Così pure, tramite sempre il denaro, vendono a quanti invece hanno necessità di comperare. Ma allora, questa necessità dà origine al commercio minuto? O non dobbiamo forse chiamare piccoli commercianti o bottegai quanti hanno sede nei mercati allo scopo di vendere e di comperare? Non chiameremo invece mercanti quelli che viaggiano da un luogo all'altro? Si capisce. Ancora vi sono, a quanto credo io, altri uomini capaci di prestar servizio. Non avrebbero certo motivo di partecipare alla comunità se si bada all'intelligenza, ma hanno forza fisica abbastante per reggere lavori pesanti. Quella categoria che valorizza il proprio vigore fisico e che, siccome la valorizzazione si chiama mercede, è a sua volta chiamata mercenaria, non sei d'accordo? Certo. Dunque, sono complementari nello Stato, come pare, anche coloro che prestano per mercede il loro servizio. Mercenari o salariati, insomma. Senza dubbio. E allora, Adeimanto, non è forse arrivata a completo sviluppo la nostra città? Non è già perfetta? Forse, concluse. Continuando quindi, così cominciai. Ma dove dunque saranno giustizia e ingiustizia? E fra tutte queste categorie, da noi considerate, in quale particolarmente le potremo rintracciare? Non lo so, Socrate, a meno che non si trovino nei rapporti di tutte queste persone, appunto. Eh sì, dissi, forse hai ragione, e conviene indugiare un po' nella ricerca senza desistere per ignavia. Dobbiamo dunque, in primo luogo, considerare il tenore di vita per chi è stato raccolto in questa comunità. Certo, si faranno il pane, il vino, le vesti, le scarpe, si costruiranno abitazioni e d'estate per lo più lavoreranno ignudi e scalzi, invece d'inverno si copriranno di vesti e di calzari. Nutrimento sarà farina d'orzo o di frumento e parte ne cucineranno al forno, parte ne faranno pasta, buone focacce e buon pane, che potranno poi servire su canne o su foglie pulite. Infine, distesi sopra sparso fogliame di tasso o di mirto, se ne ciberanno coi figli e, bevendo vino, coronati, potranno innalzar preci agli dèi. Una vita gioconda in comune sarà la loro, e se avranno cura di non far figli più di quanto concedano le condizioni economiche, eviteranno certo povertà e guerra. E Glaucone, interrompendo, ma tu li fai banchettare senza companatico. Hai ragione, dissi, mi sono dimenticato che dovranno avere anche il companatico. Sale, si capisce, olive e formaggio, cipolle e verdura, e tutto cucineranno alla maniera campestre, ma poi, evidente, concederemo fichi gustosi e ben confezionati, ceci e fave. Inoltre, arrostiranno al fuoco coccole di mirto e di faggio, per eccitare il desiderio di bere in giusta misura, e per tal modo, trascorrendo in pace e in sanità l'esistenza, par naturale, termineranno vecchi la vita e altra simile trasmetteranno ai discendenti. Ma se tu, o Socrate, avessi preparato una città di maiali, certo non li ingrasseresti in modo molto diverso. Ma come bisogna fare, dissi, o Glaucone? Ciò che si usa, rispondeva, farli sedere comodi a tavola, se non ne vuoi far dei miserabili, far che mangino a una tavola preparata quei cibi e quelle raffinate vivande che anche oggi sono in uso. E va bene, risposi, capisco. Allora bisogna far sorgere non soltanto una città, ma una città coi suoi comodi e col suo lusso. E forse non hai nemmeno torto, conviene considerare anche una simile eventualità. e allora forse potremo scorgere meglio come giustizia e ingiustizia si insinuino negli stati. Il vero tipo di stato è certamente quello già esposto, città che davvero si può dire sana. Ma se vi piace, consideriamo pure questa città fatta gonfia per eccesso d'umore. Nulla lo impedisce. La condizione esposta a quel tenore di vita non basteranno a taluni. Si dovranno aggiungere letti, tavole e altra mobilia, inoltre vivande, unguenti, profumi e cortigiane e ghiottonerie e altre molte cose dello stesso genere. Del resto, non saranno sufficienti le cose necessarie che già prima si dissero, cioè case, vesti e calzari, ma si dovrà mettere in moto anche la pittura e l'arte dell'ornato, e bisognerà possedere oro, avorio e altri simili oggetti, non credi? Sì, rispondeva. Insomma, bisogna far più grande ancora la nostra città. Quella primitiva, perfettamente sana, non è più bastante. Si deve riempirla di quella massa grande di cose e di gente che non pensi soltanto ai necessari bisogni. Per esempio, cacciatori, artisti che imitano qualche cosa per mezzo di figure e di colori, per mezzo della musica, poeti e loro ministri, rapsodi, attori, coreuti, impresari, operai che attendano a produrre ogni genere d'oggetti, in modo particolare oggetti destinati al culto muliebre. E dovremmo ricorrere anche a lavoratori ausiliari in grande numero. Non credi che ci saranno necessari precettori per i bimbi, balie, nutrici, parrucchieri, barbieri e ancora cuochi e macellai, che in più avremo necessità di guardiani per l'allevamento di maiali? Tutto questo non c'era nella prima città e non se ne sentiva bisogno alcuno, ma nella seconda dovremo pensare anche a questo, e così pure cercheremo altri animali domestici d'ogni genere, seppur si desidera mangiarne le carni. Non lo credi? Come no? E allora, dato questo regime di vita, avremo bisogno, assai più che non prima, di medici. Ma certo, e la regione, prima sufficiente a mantenere i primi abitanti, diventerà piccola e non basterà più, come si deve dire. Così rispondeva. In conseguenza, se si vuole avere spazio vitale per la pastorizia e per l'agricoltura, saremo condotti a prendere per nostro profitto una parte di terra del vicino. Reciprocamente, i nostri vicini vorranno prendere per conto loro una parte di terra nostra, nell'ipotesi che pure si abbandonino a smisurato desiderio di possesso, oltrepassando il limite di ciò che è necessario. È proprio così, rispondeva, o Socrate. E sorgeranno allora le guerre, o Glaucone, o come sarà? Sarà così. E non è certo il momento di indagare, dissi, se la guerra possa aver conseguenze nefaste o se abbia buone conseguenze. Un'unica cosa possiamo dire: abbiamo trovato la causa per cui avviene la guerra. La causa risiede in una condizione di fatti che, quando si presentano, apportano alle città sciagure d'ogni genere nella vita pubblica e nella vita privata, purtroppo. Ma allora, amico mio, di non poco più grande deve essere il nostro stato, sarà necessario avere un esercito completo. Questo esercito scenderà in campo per difendere il patrimonio nazionale, combatterà anche con gli invasori a difesa di tutte le belle cose di cui ora abbiamo fatto cenno. E senti un po', disse lui, non bastano i cittadini? No, risposi, seppure era esatto il principio secondo il quale abbiamo fondato la nostra città, ecco il principio, è impossibile che uno solo attenda bene a più cose. È vero, rispondeva, ma sta attento, dissi io. Lo sforzo bellico non ti pare un'arte? Eh sì, è molto. E credi che si debba curar di più l'arte del calzolaio che l'arte della guerra? No. Ma allora, poco fa abbiamo vietato al calzolaio di por mano contemporaneamente ad agricoltura, a tessitura e ad architettura. Soltanto sarà calzolaio se si vuole che riesca bene nella sua arte. E per le altre arti singolarmente abbiamo assegnato a ciascuna un campo particolare, quello verso cui ciascuno è naturalmente portato, e nel quale, senza occuparsi d'altro, è destinato quindi a lavorare per tutta la vita, approfittando delle occasioni migliori per compiere bene il lavoro. E non credi che l'arte militare abbia un valore maggiore, che la si debba esercitare a dovere? O credi invece che l'arte militare sia così facile, in modo che il cittadino riesca contemporaneamente guerriero, agricoltore, calzolaio o altro artefice d'un'altra qualsiasi arte? Eppure si sa che non si può riuscire nemmeno esperti giocatori di scacchi o di dadi se non si praticano sin dall'infanzia questi giochi, ma se ne fa un'occupazione supplementare. Oppure, nell'istante in cui si afferra lo scudo, un'arma o un altro arnese di guerra, così su due piedi, si potrà riuscire sufficientemente pratici nel combattimento tra gli opliti o in qualsiasi altro modo di guerreggiare. Certo, nessun arnese valido per le altre arti, preso in queste condizioni, potrà sull'istante far di colui che lo adopera un artefice od un atleta. Certo, nessun arnese potrà servire a chi lo prende e non ha abilità sufficiente, ignaro com'è dell'uso. Allora gli strumenti, rispose, avrebbero eccessiva importanza. In conclusione, dissi, quanto è più grave l'ufficio dei custodi, tanto più chiede che i custodi siano lasciati liberi da ogni altra occupazione, e d'altra parte somma esperienza si richiede e particolare abilità. Lo credo davvero, concluse lui. Ma allora io, non sarà necessaria una natura particolarmente disposta a questa attività? Come no? E allora sarà opera nostra, pare evidente, seppur ci riusciremo, trascegliere certe nature particolari adatte ad esercitare l'ufficio di custodi nella città. Opera nostra, sì. Ma in nome del cielo, esclamai, non è certo cosa da poco. In ogni modo, coraggio, per quanto ci reggono le forze. Coraggio, dunque. E credi, dissi, che differisca assai la natura d'un cagnolino generoso da quella d'un bravo giovinetto, se si consideri il loro ufficio di custodi? Come intendi? Intendo che ciascuno di costoro deve aver desti e acuti i sensi, essere veloce a inseguire ciò che i sensi percepiscono, e forte se dovesse combattere con chi è stato inseguito e raggiunto. Sì, è vero, rispondeva, sono necessarie tutte queste qualità. Insomma, valoroso, seppur dovrà combattere bene. Come no? E vorrà essere valoroso chi non ha generoso impeto di carattere? Un cavallo, un cane o qualsivoglia animale? O non ti sei accorto che contro l'impeto del carattere non ci si può opporre, che è invincibile? Per tutto il tempo in cui l'impeto è desto e ardente, l'anima intera non conosce terrore e rimane invitta. Me ne sono accorto. Ecco dunque quali debbono essere in un custode le qualità fisiche. E in quanto poi alle qualità spirituali, evidentemente deve avere un carattere impetuoso e impulsivo. Già, anche questo. Come dunque, dissi, o Glaucone, si potrà ottenere che tali nature non mostrino ferocia nei reciproci rapporti e in quelli con gli altri concittadini? Vedi bene che quello è proprio il carattere che li distingue. Rispose, non certo facile impresa, ma è assoluta necessità che costoro siano miti coi concittadini, violenti coi nemici. In caso contrario, non aspetteranno certo che da parte dei nemici pervengano danno e rovina, saranno senz'altro questi, per proprio conto ci penseranno a tempo. Vero. Che faremo dunque? Continuai. Dove ci sarà concesso trovare un carattere mite insieme e violento? La natura impetuosa e impulsiva è contraria alla mite natura. Chiaro. In ogni caso, un custode non avrà le necessarie qualità se privo dell'una o dell'altra dote. È una tesi che ha l'aspetto delle cose impossibili. Ne deriva quindi l'impossibilità di essere un buon custode. Par di sì, rispondeva. In questo momento non mi sentivo a mio agio. Rivolsi allora il pensiero a quanto già avevo detto. Poi dissi, è naturale, mio caro, ci troviamo in difficoltà, ci siamo allontanati dal termine che ci serviva di confronto. Come dici? Non abbiamo badato che ci sono veramente nature come non si crederebbe e che presentano queste due qualità contrarie. Dove sono? Guarda gli animali in genere, ma soprattutto osserva quell'animale che abbiamo confrontato coi nostri custodi. Sai che i cani di razza buona hanno appunto questa abitudine. Sono quanto più miti è possibile con le persone note e abituali. Tutto il contrario invece con chi è sconosciuto. Lo so di certo. Ecco dunque una cosa possibile, continuai, e non è più contro natura il cercare un custode fornito di queste qualità. Direi di no. E non pare a te che chi dovrà un giorno appartenere ai custodi abbia bisogno della seguente qualità? Oltre ad essere natura impulsiva e impetuosa, deve essere anche una natura di filosofo. Come mai? Rispondeva. Non ti capisco. Anche questa dote, dissi, la potrai scorgere nei cani. Ed è cosa non poco mirabile in un animale. Quale cosa? Questa. Qualora vede uno sconosciuto, s'adira, anche se non sia stato trattato male. Invece fa festa a chi gli sia conosciuto, anche se non ne abbia avuto segno alcuno di benevolenza. Non ha destato mai il tuo stupore questa caratteristica? No, fino ad oggi, rispondeva, non ho fatto grande attenzione, ma è chiaro che il cane si comporta così. Eppure è una caratteristica non poco curiosa nel cane, un fatto da filosofo, veramente. E come mai? In questo senso, che il cane non fa distinzione di persona amica o nemica, se non per il fatto che l'una gli è nota, l'altra sconosciuta. E, capisci bene, è segno d'essere amante del sapere distinguere ciò che è familiare e ciò che è estraneo per mezzo di conoscenza e di ignoranza. Vada pure, non può essere che così, disse. Ma, continuai io, essere amante del sapere ed essere filosofo non è lo stesso? Sì, è lo stesso, rispondeva. In conclusione, stabiliamo pure senza dubitare anche per l'uomo. Se deve essere benigno e mite verso i familiari e verso le persone conosciute, dovrà essere per natura amante di sapere. Stabiliamo pure, rispondeva. Allora sarà di natura filosofo, impetuoso e impulsivo, veloce e forte, chi deve riuscire, un bravo custode dello Stato. Hai perfettamente ragione, rispondeva, e intanto questo è il carattere suo. Ma questi custodi, come dovranno essere allevati ed educati? Non credi che il problema riuscirà di vantaggio, visto lo scopo per cui tutta l'indagine è stata intrapresa, cioè in qual modo giustizia e ingiustizia sorgono nella città? Si tratta di non trascurare un argomento che potrebbe essere necessario e, d'altra parte, di non svolgere la discussione per via troppo lunga. E il fratello di Glaucone, hai ragione, per conto mio la ritengo un'indagine opportuna al nostro problema. Mio caro Adeimanto, allora non è argomento da trascurare, nemmeno se risulterà un po' laborioso. Eh no, davvero. Su via, parola ci fornirà il mezzo di educare i nostri uomini. Accingiamoci all'opera, come se narrassimo un racconto e se fossimo del tutto liberi da ogni occupazione. Sì, certo. Ma quale educazione? Del resto, difficile usarne una migliore di quella già trovata da tempo immemorabile. Ed è, sai bene, la ginnastica per il corpo, le discipline cui presiedono le muse per le anime. Sì, è così. E non vorremmo dare inizio alla nostra opera con attività musaiche piuttosto che con ginniche? Come no? E fra le attività musaiche devi annoverare anche l'arte della parola, o no? Sì, certo. E la parola non può essere vera o falsa? Sì, bisogna allora educare con la parola vera e con la parola falsa, prima tuttavia con quella falsa. Non capisco, rispondeva, il tuo pensiero. Non capisci, dissi, che si cominciano a riferire ai fanciulli racconti e favole? E ciò, a dirla in breve, è menzogna. Vi è in ogni modo un elemento di verità. Insomma, ci si serve coi bimbi di racconti prima che di esercizi ginnici. È così. È in questo senso affermativo che bisogna por mano prima ad attività musaiche che ad attività ginniche. Hai ragione, rispondeva. E non sai che l'inizio di ogni impresa è particolarmente importante? Tanto più poi trattandosi di creatura tenera e fanciulla. in tal momento viene plasmata e assume l'impronta che meglio si desidera, ma certamente. E allora lasceremo così a cuor leggero che i bimbi ascoltino a caso ogni tipo di racconti, inventato pure a caso? Lasceremo che essi accolgano nell'anima opinioni per lo più contrarie a quelle che, fatti adulti, debbono possedere? Eh no, non lo concederemo per nessun motivo. In conclusione, dovremo rivolgere occhio attento agli scrittori di racconti, e quel racconto che sia fatto bene lo approveremo, nel caso contrario lo rifiuteremo, e faremo persuase madri e nutrici perché narrino ai bimbi favole e racconti approvati. In tal modo ne plasmeranno le anime con quei racconti più che il corpo con l'opera delle mani. Del resto, è necessario rifiutare il maggior numero di quanti se ne narrano oggi. Quali mai? Mi domandò. Considereremo, dissi, i racconti più grandi, e ciò sarà valido anche per i più piccoli. Debbono infatti avere la stessa impronta e la stessa efficacia, sia i più grandi che i più piccoli. Non lo credi? Sì, rispondeva, ma nemmeno arrivo a capire quali siano secondo te racconti o favole più grandi. Quelli, continuai, che furono trattati da Omero, da Esiodo e da altri poeti. Costoro, infatti, sai bene, composero favole mendaci per gli uomini, furono adoperate e si continua ad adoperarle come racconti. Quali sono, disse lui, precisamente, e qual è il motivo della tua critica? La critica che si deve fare per prima, risposi, e in modo particolare, soprattutto poi quando queste menzogne siano mal congegnate. Cosa vuoi dire? Quando si ritrae malamente con parola l'effigie degli dèi e degli eroi. Così un pittore che dipinga un ritratto per nulla simile all'originale. Certo, è giusto biasimare questo difetto, ma in quale senso, a che proposito? Intanto, dissi, chi inventò il racconto d'Urano pronunciò la menzogna più grande e in relazione poi alle questioni più grandi. Questo dio avrebbe commesso quanto Esiodo racconta, così pure la leggenda della vendetta di Crono. Le gesta di Crono e il trattamento da lui subito per opera del figlio non credo che, nemmeno se fossero veri, si dovrebbero narrare con tanta leggerezza a persone ignare e a giovinetti. Una cosa sarebbe opportuna: il silenzio. E seppure si dovessero necessariamente dire queste cose, soltanto un numero esiguo di persone le dovrebbe udire in via poi riservata e segreta, e dovrebbero offrire, quale sacrificio, non un porco, ma una vittima grande veramente e rara, in modo che a pochissimi fosse data possibilità di udire il racconto. E infatti, disse lui, sono racconti pericolosi. E non si debbono narrare, rispondevo, nella nostra città. Così non si deve dire a persona di tenera età che, pur avendo commesso l'ingiustizia suprema, nulla di strano si è fatto. Come pure, se si ricorre a ogni mezzo per aver vendetta sul proprio padre di un'ingiustizia ricevuta. Chi ascolta potrà poi sempre dire che fa quanto fanno gli dei primi e più potenti. Disse lui, non pare nemmeno a me che sia conveniente raccontare queste cose. E nemmeno che gli dei con gli dei fanno guerra, che si tendono reciproche insidie, che combattono. Tutta roba che non corrisponde a verità. Tantomeno poi, se i futuri custodi della città debbano considerar vergogna e onta suprema il far sorgere reciproche inimicizie. Così non bisogna raccontar loro le solite gigantomachie, non conviene rappresentare in opere decorative le infinite e svariate inimicizie di dei ed eroi con i loro consanguinei e con i loro familiari. Bensì, se vorremo infondere persuasione che mai nessun cittadino si è fatto nemico a un altro suo concittadino, se vorremmo persuadere che ciò è azione empia, è necessario che i vecchi e le nonne narrino subito ai bimbi racconti intonati a questo spirito. È necessario è anche far costretti i poeti a comporre per le persone adulte soltanto opere rispettose di questi principi. Al contrario, era incatenata da suo figlio Efesto, e questo stesso Efesto scagliato via da suo padre, mentre il figlio accorreva in difesa della madre percossa. E così le teumachie narrate da Omero, tutte cose che non bisogna ricevere per nessuna ragione nella nostra città, sia che esista un senso allegorico riposto, sia che questo senso nemmeno esista. Il giovane, infatti, non è in grado di distinguere ciò che è allegoria e ciò che non lo è, ma intanto quelle impressioni che ancora in età tenerissima ebbe ad accogliere, queste sono incancellabili e non si possono più mutare, motivi tutti che ci consigliano a fare ogni sforzo perché quanto quei giovani udranno la prima volta sia congegnato nel modo più bello, vero incitamento alla virtù. «Sì», rispondeva, «hai ragione, ma supponi che ci si chiedesse quali siano questi argomenti, quali questi racconti, cosa diremo?» E io continuai, «Adeimanto, io e te, in questo momento, non siamo poeti, bensì fondatori di uno Stato, e conviene che i fondatori conoscano soltanto i tratti fondamentali secondo cui i poeti debbono comporre i racconti, e qualora non perseguano la traccia assegnata, penseremo a non dare il consenso per la composizione. Non spetta a noi, in ogni modo, comporre quei racconti. Hai ragione», concludeva. Soggiunse, quindi, «ma ciò che appunto dici, questi tratti fondamentali per le storie sacre, quali sarebbero?» «Presso a poco così», dissi, «si dovrà rappresentare la divinità quale veramente è, che si tratti poi di poesia narrativa, lirica o drammatica. Si dovrà, sì, e Dio non è forse buono per essenziale qualità? In questo senso se ne deve parlare. Che ne pensi?» «Va bene, continua pure. Ma se una cosa è buona, niente in questa cosa è suscettivo di produrre danno, non credi?» «Sono d'accordo. E ciò che non possiede qualità suscettive di danno, porta forse danno? In nessun modo. E ciò che non porta danno, fa forse male? Nemmeno questo. E ciò che nulla fa di male, non sarà nemmeno causa di male? Sì, come lo sarebbe. E senti, il bene è suscettivo forse di apportare beneficio? Sì, causa dunque d'una condizione buona? Sì, ma allora il bene non è causa di tutto, bensì è causa di tutto ciò che va bene, non è causa del male? Assolutamente sì», rispondeva. «Allora se ne conclude», dissi, «che Iddio, in quanto buono, nemmeno sarà causa universa. Così si afferma, certo. Al contrario di pochi eventi, egli è causa per gli uomini, il più non ha la causa in lui. Certo, assai più poche sono le cose buone in confronto alle cattive, per ciò che riguarda l'umanità. E per le cose buone non conviene riferirsi a nessun altro. Per le calamità, invece, bisogna ricercare qualche altra causa, non certo Iddio». «È molto vero quanto affermi», rispondeva, «così direi davvero. Ne consegue che in relazione agli dèi non si deve accettare un simile sproposito né d'Omero né di altro poeta. Così Omero dice, e fortemente erra, che «dogli due si stanno a giacere nel soglio di Giove, pieni delle sorti, e l'un buone, l'altro cattive, e a chi Zeus dia mescolando dall'un d'olio e dall'altro, una volta incontra fortuna, talvolta sfortuna, a chi invece non così, ma dal vaso cattivo soltanto, costui una fame da bovi trascina per tutta la terra, e neppure si deve accettare che Zeus è dispensatore di beni e di mali». D'altra parte, pure la violazione dei giuramenti e della tregua pattuita, violata poi da Pandaro, non accoglieremo favorevolmente. Chi dirà che è stata violata per colpa di Atena e di Zeus? Così, per la contesa e per il giudizio di Teme e di Zeus, come pure non daremo il nostro consenso perché giovani ascoltino quanto Eschilo dice: è Dio che induce causa per i mortali quando annientar famiglie intere e i voglia. Ma se un poeta rappresentasse in una tragedia, come quella nella quale sono questi versi giambici, i dolori di Niobe, oppure le vicende dei Pelopidi, o la guerra di Troia, o altro ciclo di leggende, allora bisogna lasciar di dire che si tratta d'opere di Dio, oppure, nel caso affermativo, escogitare una ragione sul tipo di quella che stiamo cercando, che cioè quanto ha fatto la divinità, tutto è giusto e buono. Attraverso il castigo l'uomo ha trovato un vantaggio. Non si deve invece concedere a un poeta di dire che chi subisce giusto castigo è infelice e che la causa ne risale a Dio. Al contrario, consentiremo di dire che gli uomini avevano bisogno di un castigo, che il malvagio è infelice, che, dando giusto castigo, riceve da Dio segnalato beneficio. Combattere invece contro chi dice che Dio, buono, è causa a qualcuno di sciagura, e nessuno dovrà dire una simile bestemmia, seppur la città deve essere retta da buone leggi. E nessuno, né giovane né vecchio, potrà ascoltare queste teorie né in poesie né in prosa. Sono tutte affermazioni non conformi a sensi di religiosità elevata, come del resto argomenti che non portano utilità alcuna e non hanno nemmeno in se stessi giusta armonia. Oh, ti concedo il mio voto per questa legge, va benissimo. Questa dunque, continuai, sarà una delle leggi sulla divinità, uno di quei tratti fondamentali, quasi formule secondo cui gli oratori avranno a parlare e i poeti a poetare. Il Dio non è causa universa, ma soltanto causa di ciò che è bene. E, concludeva, basta così. Ma veniamo a un'altra legge, e sarà la seconda. Credi che il Dio sia un mago incantatore? Che per ingannare ci appaia a bella posta, ora in un aspetto, ora in un altro? Che si trasformi, diventando diverso dal suo vero aspetto, per assumere forme molteplici? Che talora per inganno ci offre una vuota sembianza in cui egli non è? O non piuttosto dovremmo credere che egli è semplicissima natura e che dal proprio aspetto giammai non si disparte? Non ho modo per il momento di darti una risposta precisa. Ma senti, quando una cosa si trasforma, il cambiamento non può derivare che da una di queste cause. O la cosa si trasforma da se stessa, o qualche altro agente produce la trasformazione. Sì, e non è forse vero che le cose più perfette subiscono per opera d'altro agente mutazioni in grado minimo, per esempio il corpo per effetto di cibi, di bevande, di fatiche, così pure le piante per opera del calore, del vento e di simili altri agenti atmosferici. Non è forse vero che chi è più vigoroso e più sano soffre minima alterazione? Come no? E che un'anima vigorosamente dotata di spirituale forza e di sapienza sarà perturbata e tramutata in grado minimo da qualche causa estranea? Sì, del resto, sai bene, tutti gli oggetti fabbricati dalle mani dell'uomo, edifici e vestimenti, secondo lo stesso rapporto, se sono lavorati bene e messi in buone condizioni, subiscono un'alterazione minima per opera del tempo e delle altre cause. È proprio così. Concludi, ogni cosa, perfetta o per natura o per arte o per l'una e per l'altra causa insieme, subisce dall'esterno una mutazione che è minima. Par di sì, ma il Dio e la sua divina natura sono perfettissimi. Come no? Per questo motivo allora il Dio non subirà affatto trasformazioni. Niente affatto, certo. Ma allora è lui stesso che si trasforma e tramuta? Evidente, rispondeva, dato che pur si tramuti. E si trasforma verso una condizione migliore e più bella, oppure verso una inferiore e di se stesso deteriore? Allora, ammesso che si trasformi, il mutamento dovrà avvenire verso condizione deteriore. Non potremo mai dire che in Dio siano deficienti bellezza e virtù. Hai perfettamente ragione, risposi, e se così stanno le cose, chi tra gli dèi e tra gli uomini o Adeimanto accetterebbe di rendersi peggiore? È impossibile. Ne consegue, non è possibile che un Dio voglia tramutare se stesso. Al contrario, bellissimo e perfetto al massimo grado, ciascun Dio rimane nella sua forma, nel suo aspetto. Mi par proprio che non ci sia nulla da opporre. E allora, nessun poeta, mio ottimo, ci verrà a dire che dei somiglianti a stranieri di terra lontana per le città s'aggirano sotto ogni forma nascosti. Così pure Nessuno ci verrà a raccontare le menzogne di Proteo e di Tetide. Nessuno in un dramma o in altro poema ci rappresenterà Era, che si trasforma e che, come sacerdotessa, va mendicando per i figli, datori di vita, dell'inaco fiume, l'Argivo. E lascino stare di raccontarci gli altri innumerevoli miti, e smettano le madri, prendendo impulso da questi esempi, di far tanta paura ai loro piccoli. Esse alterano le storie sacre, quando dicono che talune divinità s'aggirano notturne, sotto le sembianze di pellegrini multiformi. E l'unico risultato è di proferir bestemmie contro gli dèi e di rendere i bimbi più vili. Smettano, sì. Allora, conclusi, gli dèi, per conto loro, hanno natura tale che non ammette mutazioni. Ma forse, soggiunsi poi, agiscono in modo che sorga in noi l'impressione di trasformazioni d'ogni genere, e con ciò ingannano e illudono. Forse, rispondeva. Ma senti, continuai, un dio vorrà mai mentire con parole o con fatti mettendo avanti un fantasma? Non lo so, disse lui. E non sai che tutti gli dèi e tutti gli uomini odiano le vere menzogne, seppur questa frase può avere un senso? Come intendi? Così, risposi. Nessuno accetta, per quanto sta in lui, d'essere ingannato con la parte più nobile di se stesso e circa le cose più gravi, bensì tutti hanno particolare terrore di possedere menzogna in rapporto precisamente a questi fatti. Non capisco nemmeno ora. Tu credi che io voglia dire qualche cosa di recondito? Dico invece che tutti non accettano per nessun modo di ricevere e di conservare inganno nell'anima. Non vogliono per nessun modo essere ignoranti e possedere la menzogna in così eccelsa parte di noi e ivi mantenerla. Certo, rispondeva, molto giustamente, ciò che del resto ora si diceva, si chiama vera menzogna appunto questa, cioè l'ignoranza quando s'annida nell'animo dell'uomo che è stato ingannato. In realtà, la menzogna formulata con parole è imitazione d'un fatto d'ordine interiore, immagine successiva, non più essenziale menzogna. Non è così? Certissimo. La menzogna essenziale, in conclusione, non solo è odiata dagli dèi, ma anche dagli uomini. Sì, e cosa ti pare della menzogna espressa a parole? Vi sono forse casi in cui potrà essere utile a taluno, sì da non apparire degna di completo odio? Non forse verso i nemici e verso le persone che diciamo amiche, quando per follia o per stoltezza cercano di far qualche male, allora per distoglierle la menzogna potrà diventare utile a guisa di rimedio? Così pure nei racconti e nelle favole cui si accennava, non sapendo come sia il vero circa le cose antiche, si dà aspetto di verità alla menzogna, e per quanto è possibile si cerca che la menzogna ci serva in qualche modo. Sì, disse lui, è così. E sotto quale aspetto allora la menzogna a Dio può dar giovamento? Ti par forse che, non sapendo le antiche cose, egli dirà menzogna, aggiustandole in qualche modo? Conclusione ridicola, codesta, rispondeva. E allora in Dio non c'è l'ufficio del poeta menzognero? Non mi pare. Ma forse mentirà per terrore di nemici? Eh no, ce ne vuole. Ma avendo riguardo a stoltezza e a follia di persone amiche? Nessuno, rispondeva, tra gli stolti e i folli è amico a Dio. Non v'è dunque motivo per cui Dio pronunci menzogna. Non vi è. Insomma, i demoni e la divinità non conoscono menzogna, assolutamente. Oh, non c'è dubbio, rispondeva. Il Dio dunque è natura semplice e vera, nell'opera e nel verbo, non si tramuta, non inganna con apparizioni, con parole, con segni, non quando siamo desti, non quando si dorme. Così, rispondeva, pare anche a me. Sei d'accordo dunque che questa sia la seconda formula? Seguendo nello spirito, si deve sempre parlare e poetare sulla divinità. Gli dèi non sono maghi incantatori e non si trasformano mai, né ci sviano con menzogne nel discorso e nel fatto. Sono d'accordo. Ne consegue che, pur tributando ampia lode per tanti riguardi ad Omero, non approveremo certo quel suo sogno mandato da Zeus ad Agamennone, e nemmeno Eschilo. Dice Tedide che Apollo innalzava il canto alle sue nozze per celebrare lo splendore della prole. Gli sposi a quel punto, scevri di morbi in lunga età di vita, cantò col suo peana confortandomi. Questo, diceva, era il destino nostro, ed io credevo immuni da menzogna le divine di Febo labbra sante, le irrora fiume la profetica arte, e il dio che questo un dì cantò, quel dio che questo disse, il figlio mio m'ha ucciso. Quando dunque si dicono queste enormità sugli dèi, ci adireremo col poeta e non gli concederemo facoltà di rappresentare il suo dramma. Così pure non concederemo permesso ai maestri di adoperare queste opere per l'educazione dei giovani. Dai custodi noi pretendiamo sensi di religione e d'amore verso Dio. Pretendiamo che, nella misura concessa ad un uomo, divengano simili il più possibile a Dio. Non v'è dubbio, rispondeva, accetto queste formule e me ne servirò quali leggi.